lui gli ha detto, guarda, io sono con la cartina di Foppa, glielo dirò, però telefonate a casa sua, siccome il mio numero sulla guida per altri motivi non ci più. Sicuramente, siccome eravamo in complex con quella di fronte, lui cambiava solo un numero, 2459 17, 2459 18, una cosa del genere. Allora, e probabilmente si è sbagliato, io devo avere il numero 20, e si è sbagliato invece che 17 ha fatto 18, invece l'ha fatto per due volte. Dice che è quest'Antonio che mi sta cercando, io poi sono attaccato e ho detto, ma non è che sia Antonio che magari, ma il numero vecchio non se lo ricordo. Antonio, già. E non era affatto il cognome, io ho pensato che fossi tu che magari mi stavi cercando. Poi ho pensato che fosse Antonio Tirocco, me lo dico io. Ma se mi vogliono mi chiami in cerca, lui non è problema. Scusami, cucciava, me lo portavi in casa quando ti ha telefonato, invece di fare mille storie, mi portavi il codice in casa, 5 minuti, guardavo chi era, che aveva dato il numero io e tutto, non ci ho pensato, sì. Quando arrivi la Ienti, si piglia la bombola dal camion, nemmeno loro gliela danno, se la prende il cliente, quella grigia se la prende, c'è la signorina, ti fa il buono, ti dai di là, si piglia la bombola. No, noi abbiamo il deposito, abbiamo, però se ne carreggiaggi, con la gioco, se ne carreggiaggi 20 e 20, fa di... Se vendi subito e quindi bisogna andare a riprenderlo. Chi è che vuole entrare? 21. Chi è che vuole entrare? Avanti. Massimiliano, buongiorno. Dove se la trova Massimiliano? Perché i lavori dovete riprendere? Sì. Io penso ancora di riprendervate dopo le vacanze. La gente fa sentire Massimiliano, prova a vedere. Tiago 4, ma la radio è buona, la radio è 4. Sembra da un fosso. Dov'è? E io che appunto piove qua. Vabbè. E comunque, e dove sei? Che zona sei, Massimiliano? Ah. Ho capito, si dice, città. Ce l'hai attaccato alla faccia. Amici anche Antonio c'è, tanti saluti da Antonio. Ciao Massimiliano. Ciao Antonio. Attento Massimiliano, io non lo sento. Ascolta, lo ascolta Massimiliano, ma Antonio Massimiliano. Da vivo. Io non lo ascolto manco a lui, da questo è tutto 30 un fosso. Tu ti sei 30 un fosso Massimiliano. Ah, io ti ascolto lo stesso. Per me è tutto favorevole. Passiamo Massimiliano, non ti preoccupare. Avanti. Caffa, sta chiudendo Massimiliano. Non ho capito male. No, è arrivata la macchina a caricare e sta mollando anche. Ma caffa. Ho visto come funziona già da noi. Purtroppo molte non le vogliamo manco tenere. Quindi ce la prendiamo un po' alla volta, hai capito? Perché ci sono parecchi guai che sono. Io non ho seguito quello di Alghero che gli hanno trovato quel capannone abusivo di bombole. direttive le possiamo ottenere. Siamo a posto noi su quel fatto lì, abbiamo le prevenzioni dell'incendio e tutto quanto. Ma di quei problemi non ce ne stanno, però ne prendiamo un po' la volta perché magari se sei buoni con i vuoti, cioè, diventa un casino, anche a te. Vabbè. E poi con queste cose infiammabili bisogna andarci in cauto. Per dire, noi quando prendiamo l'alcol più di una certa quantità non le possiamo prendere, lo sai, non le possiamo immagazzinare più di una certa quantità di alcol. Sembra un po' immaginare. Allora, ci sono sempre questi problemi perché ti contano vuoto per pieno e non è a tutti nulla, ma quelle sono vuote, no? Le contano lo stesso. Vediamo lo stavo dicendo. Ho fatto l'aria e ho trovato l'inganno sempre. E arrivati la bomba la bionda, vabbè che è pericolosa lo stesso, forse di spinti. Poi messa in mezzo, alle piedi diventa una bomba. Ma se uno deve lavorare come cavolo fa, porca miseria, non può stare andando e prendendo. Infatti da prendere una cinquantina. È puro e non è cuscino. Vabbè, noi le possiamo ottenere, cioè noi è tutto regolare, perché poi se prendiamo una bombola c'è in aria, cioè no, è ventilato, tutte le cose a norma ci sono. Però non si può lavorare a certi livelli, assolutamente. Lo so che non si può lavorare, ma che c'è quello che magari vede e mi dà quattro bombole pari. Ce ne sono bevi di queste persone in campagna, ce ne prendono magari a metà di campagna, ce ne pigliano i quattro, caricano i rifiuti e comincia uno. Ne pigliano altri quattro e già sei risolto. Assolutamente, tu per ogni bombola che tu prendi, la metti sul cassone e stai metterci lo scontrino. O se no se fai un carico, la bolla di accompagnamento. Ti fai un camioncino più umano, come hai visto che hai detto. Anche tu lo puoi guidare così, no, il camioncino, cioè un camioncino grande, cassonato. Io vivo la patente R ci vuole. Vuole la patente R. La mia bomba deve essere scontrinata, oggi vuole la bolla di accompagnamento, altrimenti è buffine. Siamo proprio a livelli da schifo. Cioè quello non blocca i casini, una bombola dopo andare e poi ritornare a portarmi un'altra. Cioè, come cavolo fai? Cioè quelle di carichi devono essere accompagnate da una bolla di accompagnamento oppure da uno scontrino. Ma c'è la vita. Allora voi quando vi chiamano quelli che tu stai consegnando in un posto, se vi chiamano per tornare lì a prendere la bomba. No, io ce l'ho sempre, ce l'ho. Però cioè, tutti ce l'hanno così. Tutti quanti ce l'hanno pure così la necessità. Ciao Fanny. Sono. Mi pare che siano una volta noi ci hanno beccato qua, ci hanno fermato, per tanto tempo fa, un milione a poco ci hanno fatto questa missione. Pagate! Sì, a questi livelli al minimo adesso saranno 500 euro di contravvenzione a poco. Tutte quelle che trovano senza riscontri, meno male che ce li avevamo molte. Però se le ha controllate tutte, ma perché non ci lasciano le balle in pace? Vediamo, un mestiere proprio che deve stare con gli occhi aperti, perché chi viene lì si è fregato. Beh, non fa per dire a scontinare tutte quelle che avete sopra, tanto bene o male lo sapete più o meno quanto le vendete al giorno, quindi almeno il carico che ci avete sulla moto, perché se poi vi beccano casino. Sì, no, qualcuna già le stiamo scontinando un po'. Ma dico sempre il bello dell'uomo che usa, no? Qua, cioè, sono gente disgraziata, c'è gente che sta facendo veramente del male, sta rompendo le spalle, allora, cioè, nessuno le fa niente. Noi che siamo travaglienti, non stiamo disturbando nessuno, stiamo solo facendo il nostro lavoro, tutti vogliono romperci le spalle. Una volta sono andato a scaricare una spesa all'ultimo piano, ho preso i primi due cartoni, sono sceso già a prendere gli altri e ho trovato la finanza postata, la macchina della finanza dentro il furgone, la finanza postata che sta guardando le scatole. Sono arrivato e ho detto buongiorno, buongiorno, questa roba dove la sta portando? Al circolo? No, perché c'è un circolo lì vicino. No, la sto portando da un privato. Sto parlando da un privato a casa sua, dice mi fa vedere lo scontrino di questa merce, certo che lo faccio vedere, dico parte della roba l'hanno già portata su, e io le faccio vedere lo scontrino, tutto quanto la controllano, dice questa qui la fate pagare a domicilio, vero tu sì, e quanto fate pagare per portare a domicilio? Niente. Qua perché non c'è segnato quanto fate pagare per il domicilio, se dovete mettere anche il prezzo di quanto fate pagare per portare a domicilio, se io trovo che è gratis, questo lo verificheremo se è gratis o no. Lo verifichi, problemi io non ne ho, però dovrei continuare a lavorare, per così da dire. E mi ha detto, vabbè dai, veniamo a verificare poi il secondo tempo. Ok, arrivederci, se mi sta facendo. Ma voi sono giunti chi? Non lo so, non lo so. Ma intanto non c'è nessun problema perché tutti i nostri utenti possono dimostrare che io non faccio pagare mai niente. Beh, certo. Siamo un po' niente di grazie, no? Mi hanno detto che ti una volta stavo caricando il capanno, adesso sono dentro il capanno. Poco su macchinario, siamo venuti dentro dove c'aveva il capanno, no, lì, nello spiaggia. Tutti gli autotrasportatori che venivano li fermavano. Delle billi un'ora, dovevano scaricare lì, tutto quanto, avevano un altro carico per altri negozi, cose, poveracci, li facevano perdere un bel tempo. Allora, io la gente che va a combinare, vedete che sta lavorando, onestamente non sta rompendo le palle a nessuno. Allora, poi devono fare i controlli a chi è veramente, cioè che fa queste cazzate, che va a rubare, eccetera, eccetera, cioè, a chi si rompono cane, come si può dire, non lo voglio dire, va. Diciamo una cosa, che chi lavora per conto di altri le tasse le paga sempre, chi non le paga sai chi sono, i capocciosi. Non so, rompo le scatole a quelli lì, no, a noi che stiamo lavorando, non stiamo rompendo le palle a nessuno, cioè, stiamo solo facendo il nostro lavoro, non stiamo solo, stiamo, cioè, questa gente va tutto a castagnare, la gente che non sta facendo niente. Guarda che un autotrasportatore gli aveva controllato pacco per pacco, mi sono saliti sopra il camion, credo che avevo medio roba, hanno buscato tutta la merce, cioè, poi c'è tutta posizionata, ma scala non mi interessa, bisogna controllarla, poi se la rimette a posto. Pure a me mi è arrivato, buonasera, buonasera, ciao Antonio, ciao Gianni. Buonasera, salve. Va bene, dai, io già, io sto scendendo giù, dai, riprendo la ragazza, adesso il numero mi chiama. Ok, già già non ci ha salito, ci sentiamo fra un po', per raggiare, cioè. Vai. Yeah, ciao Anto. Se mi è male sto già, a casa con l'influenza bell'offia. Te lo dì a me che mi subisci tu un paio di anni fa. Certo, ma dimmi i sintomi però dell'influenza della virizia. Mal di testa, nausea, mal di pancia forti, diarrea, ho anche vomitato, oltretutto, nausea o mai. Allora, più o meno siamo lì. Ma mal di testa forte, proprio dolore di, nelle tempie e occhi appesantiti, numero di dolore di testa. Ehi, ehi, è forte. E poi mi è venuto che questo mal di pancia da crepare, mi sembrava di avere una colica. Mi ha fatto diarrea. Dai, allora c'è così il tipo di influenza. Perché io mi sono preoccupato da YouTube, ma me ne siamo messati, io non me ne sono mai venuti di lui a testa. Sono una forza, allora però la tachipina ti leva la febbre. I dolori di testa non ti passano, allora con quello per i dolori di testa ho dovuto prendermi le bustine di Auli. Me lo calmano, dopo come passa l'effetto della medicina, torna due ore in volti. Ma devi stare attento, cioè mi ho paura, starnutire, che proprio ti senti gli occhi che te ne stanno uscendo. E adesso c'è mia moglie che è così. È passato Marco, è passato Manuela, sono passato io, adesso tocca a mia moglie. C'ho la testa, se mi hanno picchiato un bastone, no? Mi fa un bel male, spero che passi in fretta, è già la venerdì così, poi la febbre mi l'altra notte, giusto l'altra notte mi è salita un po', 39,5, però se no è sempre regolare, la stamattina ce l'avevo 37 e poche lineette, nemmeno 37,5, adesso non dovrei averne, ma mi ha colpito il gabbo. Non so se anche a me l'ha fatto, non è in tempo, è proprio di impresa. E a mia moglie che questo dolore forte allo stomaco, come se avesse una pietra che non lascia se respirare. Spero poi vabbè qualche volta veloce in bagno, proprio asciolta, mamma mia. Già mi dà così, Sabri, non ti preoccupare che è l'influenza che ancora deve arrivare. Diciamo questo è l'assaggino. Vediamo di passarla adesso così, magari non prendiamo altra. E che osso. Questa è fuori turno, non è che... Perché quella che stavamo aspettando, l'influenza, dovrebbe venire verso dicembre, gennaio, fine dicembre, primo di gennaio. Capito? E quella lì dice che è forte veramente, ti cribombe. E poi c'è quest'Ali, se la stanno prendendo tutti quanti, c'è anche la mia amica, mi ha telefonato, mi ha detto che si è preso questa influenza, meno male che sono riusciti a debellare, non è mai stato un bel male. Dai, quando te ne accorgi, io so per dire se c'è l'influenza, eh? Quando te ne accorgi, cosa la fai? Vai dal tuo dottore di famiglia, Sintomi di influenza di febbre molto alta ti danno, senza che ti si carico con l'attacchipirina, tutte queste cose qua. Se tu ti metti l'attacchipirina e vedi che l'influenza non cala, vuol dire che c'è quella lì. Perché sono forme virali e se non metti un antibiotico che faccia bene a quel tipo di virus, non ti passa. Allora già da quello siamo fuori là, perché ho imparato a chi prima da abbassare subito, capito? E più la febbre per dire mi dura poco, come mi sale un po', ho imparato a chi prima e poi non c'è, cioè, fino all'indomani magari non ne ho. Però sono questi dolori forti alla testa che mi proprio, cioè, mai, sai, perché non sono abituato, c'è gente che il mal di testa gli viene un po' di volte. A me non me l'ha mai venuto, ma di testa lo sa che per me è una cosa molto strana, capito? Mi fa male un bel a testa, proprio scoppiando la sento. E gli occhi appesantiti, se tossisco, starnutisco, non c'è il dolore che sento a testa. Proprio dico aia, perché come che ti si stia muovendo l'usendito, bruh? Perché ci sono i seni del naso, le tempie, che cosa, che sono tutti infiammati sicuramente dall'influenza, e ogni volta che tu si ripercuote ti fa male per quello, non è niente, ma quello di mal di testa ho mai sofferto, l'altro giorno c'è la testa che sembrava che avessi un piombo in alto, una presa a testa di capo e un mal di testa che non potevo stare, e poi anche quell'effetto dello stomaco me l'ha fatto anche a me, che non riuscivo quasi a respirare, mi sentivo gonfio, a crepare, non avevo mangiato nulla, non l'ho mangiata addirittura perché avevo nausea, poi sono parlando di notte, non vorrei che volta più. Positivo. Vabbè, spero che passi in fretta, comunque forse anche un po' colpa mia, perché quando è un po' qualche giorno fa, un po' di giorni fa mi ho tagliato i capelli, e cioè i capelli corti, ho fatto una velocetta veloce, col bello a busta del gesso, ho trovato un casino perché dovevo uscire, e non mi ha asciugato i capelli da te, intanto ce li ho corti, ho detto la gelatina, sicuramente è quello che mi ha cancarato, mi è nato tutto da lì, sicuramente. Ma cosa ti dico, anima longa non i muri. Dice sì. Tu che ti sia longa e non aveva amara. Vabbè, ho ridotto un po' la situazione. La fa. Luia, mamma mia, ma di gabbo. Sono tutto il giorno attaccato a Skype, qua in cameretta, sotto le coperte, al calluccio. Ma lo sai che è sbagliato? Quando c'è la famiglia devi scoprire invece che coprirsi. Lo sai che è sbagliato coprirsi? Sì, no, ma non è un febbre ora. Stamattina preso ci andava appena, ma 37 qualche vignetta. Ho preso la tachipina, abbia bellata subito, non è un febbre adesso. Dolori, mi fanno male, sono indolenzito, sì, e non so cosa, ma quello che mi fa più male la testa è un gabbo. Lo so. L'ho fatto anche a me, è iniziato così a me, ma di testa così alle zitti. È iniziato così, poi nausea, va bene, nausea non è. No. E' meglio così, meglio che non ti rivedi. Perché ti prende quella nausea che poi alla fine c'è la febbre, devi rimettere per forza, perché ti senti nauseata al massimo, senza mangiare, senza nulla. Devo una passata di mio bramuro. Il mio duro. Ciao a tutti. Ciao Sabri. Ciao Gianni. Il tempo di me, perché io lo stesso, sono andato proprio bene. Poi mi sono avvato, quindi una cioccolatina perché dovevo uscire in fretta. Cazzo, mi sento appuntito, veramente, sono ubriaco. Luia, se sembra una piccola paterosa, a me mi comprende un gabbo. Sono forza, non tanto le tachipine, no? Comunque buonasera Luca. Ma il coso, sono questi dolori lancinanti, forti alla testa proprio. E gli occhi appesantiti, come ti mi esce in lucida. Allucinante, Gabriel. Mai avuto sintomi del genere. Speriamo che passi al volo perché non metti gli animali, Sì, no, bisogna riguardarsi perché è tosta. Vabbè, a me la verità è già un qualche anno non mi prende l'influenza, questo lo devo dire. Ma di ora sì, più volte. Poi, vabbè, tosse lo stesso, nulla. Ma di testa un bel video, un bel, a rotta di collo. Cazzo, anni e anni. A me la verità mi viene, mi... Se metti i bicchieri di vino, ti fa male di capo, io non so il perché. Tutti mi dicono perché non sei abituato. Anche quando prima bevevo, non so come cazzo la qualità, perché per esempio c'è una bevevo ogni giorno. Sempre la stessa cosa. Nulla, sempre mal di capo. Alla gava. No, a me magari mal di testa che buono. Cioè, no mal di capo. Un geccio, quando si di puntino, magari si arrucchia per vendere, allora ti controlli, si in armonia, creando scherzando, cantenne e cose, B&B, a questi non sono mai di debito, quattro di quei trivirra, non so come si rinnovare, che era di gabbo. E tu mi stai come le gambe come il vento, molto molto. 9,5 e prima di 8, quindi vuol dire che qualche cosa è migliorato. Antonio, arrivato. Antonio, ci sei? Guarda, bombolino, alla volta. Non penso, boh, non si è sentito. Oh, boh, adesso ho levato l'antenna, sarebbe più su, altezza del tetto. Un metro più su, sarebbe levato l'antenna della macchina. Di quelle lampade alogene di cui si mettono in casa, cioè le prese, tutti ne sono in difesa per e al momento è 60. Ah, ci ha attaccato l'antenna sopra. Sì, ho attaccato la barretta quella da secchi, là, da secchietto, per il camion, e gli ho messo la barretta. È perfetta, stazionale 1 e 1. Ah, va bene, va bene, si è salito da 8 a quasi 9,5, già migliorato. Ieri ho sollevato 3 metri di palo, ho fatto scivolare questo palo dietro, mi pensavo che stavo mettendo la dieta dei radiali, poi questo momento mi sono fratellare, sono detto ho paura, ho preso, mi ho attaccato la gamba e comunque ce l'ho qua, insieme al palo, in seguito la pianterò. Ah, ieri hai provato la Grand Prix, usciva? Sì, usciva, solo che dopo il palo troppo lungo, cioè, non stavo ben troppo, mi sono attivo, non stavo questa cosa. Poi metto nel coso, mentre il stallo in ferro così è troppo leggera, capite? Basta come di mezzo scende, ma giù palo e il stallo. No, un paio di strafe te le devi mettere, se la vuoi attaccare di lì, capito? È un palo abbastanza robustello, là. Ho 3 metri di palo, l'antenna sopra, vedrai come ti chiede buca sopra nel tetto. Sì, già, se domani va bene così adesso, poi in seguito la metto sopra. Un altro pezzo di palo, se ne scopri poi c'è nel cassetto. Quindi passo da 2, 4, 6 metri, mi fa due scopri, tanto l'altro mi ha preso, è già mezzo filo, è leggera, poi neanche tirate di mezzo. Ehi, riprendi già, un attimo. Quindi era di invece l'ho voluto alle qua. Sì, ho fatto la prova ieri sera, questo già va bene, però mi sono filato. Come se ti dicevo per andare alla macchina, mi sono detto che era molto meglio di prima. Prima era agganciata all'alluminio e non faceva massa, adesso l'ho agganciata questo coso in ferro e perfetta.